Ma che vuoi, oh? Oh, tocca la pasta, massaggiami un po'. Ho tutto la carne che mi sta trattando con la trippa che... Vai! A macchio, tocca la pasta! Ma che te tocco? La mozzarella, la mandorla, io! Ma ho capito, ma che cazzo vuoi, io? Che cipollotti, ma che c'hai in orto? Non stiamo Se non viverla con ansia, stappa un vecchio rabosello che prepara un bel castello senza semi. Ho la cucina sotto sopra deturpata da due gatti scemi. Carni, ferri, due spinelli tolgono questi problemi. E se mangiamo e poi suoniamo, rotoliamo senza freni. Roba che fumi un po' e dopo svieni. Ma da dove vieni? Raccattati dalla strada, gente nuova che si accolla. Sto sballone me la tira lunga e non mi molla. Apri una cera e stai, facciamo i bravi che sto caldo ammazza. Tu sei una lumaca, sì da quanto sfavi. Va a finire che smarmello in uno squallido locale. Ho visto da boss il cartello stradale, fuck le stradale. Che situazione, iperventilazione. Il kraken che mi scolo scioglie la concentrazione. Ma questa serata la ritaglio per scopare, bere, per fumare, bere, collassare ancora bere. Tu preparami una camomilla che ho la testa dentro al cesso. Quindi sbocco quando vedo il mio volto riflesso. Ti confesso la mia dipendenza da stupefacenza. Non lo faccio per tendenza, la mia sana coscienza. Ho le pupille di un cavallo, i muri sciolti e storti. Le allucinazioni hanno le forme di animali morti. E intanto i gatti sono diventati draghi tra le strade di Amsterdam che paghi. Oppure in birreria da Ciano con la pinta nella mano a mormorare piano. Tipo un monaco tibetano, non so come mi chiamo. Le mascelle mi si chiudono da coccodrillo. Bella Douglas quando arrivi qua sotto fammi uno squillo. È tutto pronto per il torneo, ne manca solo il scotch. Intanto allungo la cedrata con un vecchio scotch irlandese. All'Eurospin non vado a spese sangiovese. Da scolarci nelle attesi, vecchi tempi poi da pendolare. Stavo in prima classe con l'erbetta da ruspare. Roba stronza nelle casse, il controllore mi chiedeva se era gay. Schizzavo più di una pallina in un campo da gol. Anni dopo mi ritrovo con un po' di pancetta, costretto ad ascoltarmi ancora dentro una cuffietta. Ancora adesso, prima di un concerto, la mia voce bolbetta con un filo di bavetta sull'ennesima birretta. Soldi a framma che è ridotto male, il fegato sta peggio. Diciamo pure che entrambi sono in pareggio. Vuoi un consiglio? Non andartene in campeggio, che finisci con come andrà a sboccare sulle foglie di un ciliegio. Privilegio, mi hanno fatto un sortilegio perché la fotta non basta. Se vuoi farmi un bel bocchino la mutanda mi si abbassa. La metà di questa scena è plastica, l'altra è muta. Oppure un copia e incolla di mistura biforcuta e prostituta sopravvalutata che si rifiuta di avere successo dopo una bella sudata. Corsa per il primo premio, una bottiglia di Refosco. Ma peccato che sia stemio, io nemmeno ti conosco. Credi che parlare con sincerità sia un'eresia? Senti soffocarti in mezzo a troppa ipocrisia. Sei da solo nella folla dannata, spari in preda all'asfissia. Poi collassi dopo aver fumato in Tunisia. Se il dentista si dimentica l'anestesia, se la polizia scopre tutto dopo l'autopsia. Se ti dico che non esiste nessun tipo di messia, tu non viverla con ansia. Bella vecchio. Bella vecchio. Le voilà. Le Chardonnay, le Merlot, le Cabernet.